Blu Radio Veneto. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Buonasera a tutti da Stefano Dainese, sono le 22.37 minuti, siamo in diretta come al solito dal nostro studio di Padova, inizia Rock Wave e questa sera, come spesso ci accade, abbiamo degli ospiti che sono venuti qui per suonare dal vivo con noi. Si chiama il protagonista della serata si chiama Daniel Benjamin. Welcome. Ciao, thank you. Grazie. E il suo amico è Willy. Yeah. Willy from Lingby, from my band Lingby. Willy che viene dalla band Lingby, vengono dalla Germania loro, nonostante i nomi anglofoni. E Daniel appunto è qui per presentare il suo ultimo album che è uscito da qualche mese, si intitola There's a Deathbed for Your Monster, è un disco... annuncio subito molto interessante, molto ricco anche strumentalmente, un disco pieno di varietà dal punto di vista musicale. E adesso qui mentre ci stavamo così preparando alla trasmissione ho scoperto che Daniel ha dei gusti musicali estremamente eterogenei, ci ha anche portato un disco di un'altra sua band che si chiama Jumbo Jet, che come avremo modo di sentire fa delle cose completamente diverse da quelle che lui fa normalmente appunto come solista. E, come è nostra tradizione, apriamo la trasmissione con un brano estratto da questo album appunto di Daniel Benjamin, il pezzo si intitola I Need You, ci ascoltiamo il pezzo e poi chiacchiereremo con Daniel e ascolteremo la sua musica. There's nothing I can say, there's nothing I can do. Like a flower needs the sun, I need you. There's nowhere I can stay, there's nowhere I can go. Like a bird needs a nest, I need to get some rest. I'm not afraid to a knife into my heart, gave you the missing part. I found a friend somewhere else, looked in outer space to find a heart-shaped sun projected to Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, questa canzone si intitolava I Need You, come avete sentito, un brano estremamente costruito con arrangiamenti molto ricchi, e Daniel è qui con noi per parlarci appunto anche di questo disco e un po' di lui. Visto che qui in Italia... Is it your first time in Italy? No, it's the... I think the fourth time. Oh. But it's the first time in Padova. Ok, sì, è la quarta volta che viene in Italia, ma è la prima volta che viene a Padova, quindi per noi è nuovo, e volevo chiedergli intanto se può raccontarci un attimo della sua carriera fino a questo momento. Just a short introduction about you, about your career. How long are you playing? Well, for how long? Yeah, I basically left school in 97, and that's... I never learned anything, like I never got a real profession, so I just started playing music and I just went on since 97. I mean, I had bands before that as well, but 97 was when I was 18 and I could do what I wanted to. So. Allora, quando aveva 18 anni nel 97 ha lasciato la scuola e da allora non ha mai avuto in realtà una professione, ha avuto diverse band. So you make a living with music from 1997. Yeah, I started with some side jobs, you know, like night watching or a truck driver. I was for like half a year or something, but just to support this, like 2 or 3 days a week. Those jobs and then go on part tour time, and yeah. Play, yeah. Sì, ha detto, ho fatto soltanto qualche lavoro part time come il guardiano notturno, l'autista di camion, però appunto gli sono serviti soltanto come ponte per arrivare al momento in cui ha potuto mantenersi semplicemente suonando, che era la sua passione. Mi ha detto prima che ha fatto altri due dischi. You said you made two other records. Yes, exactly. And also with the Jumbo Jet. Yeah, with Jumbo Jet we had two records, and then with Daniel Benjamin it's all together three, and I had some bands before that as well, which... Ok, allora ha fatto tre dischi come a suo nome, appunto Daniel Benjamin, e due con i Jumbo Jet, uno dei quali abbiamo qui in studio, e poi altri progetti con altre band, quindi insomma è riuscito a raggiungere il primo obiettivo di tutti i musicisti, che è quello di vivere con la musica. You reach the first goal of every musician, to live out of your music. Exactly, yeah, that's what... That's why I'm really happy already. So. Sì, dice, questo è una cosa che lo rende molto molto felice. Can I ask you to play a first song for yes, us? Yes, of course. Bene, allora adesso ci suona una prima canzone. Can you tell us something about this song? Yeah, it's called The Face of Death, and it's one of the songs from my first record. And it's all about feeling death is really far away. For a young guy, yeah. That I was back then when I wrote it, but still it's interesting to think about what is happening, you know, around it and after it and before it, and yeah. How do you live your life, all that, those questions. Allora, la canzone si intitola The Face of Death, la faccia della morte, ed è una canzone tratta dal suo primo disco, un brano che lui ha scritto quando era appunto molto giovane, quando questi pensieri di morte sono chiaramente molto ma molto lontani, però ha trovato interessante comunque mettersi di fronte a questo grande mistero e scriverci una canzone dal punto di vista di un ragazzo giovane. Allora ci ascoltiamo The Face of Death e Daniel Benjamin dal vivo su Blue Radio Veneto. If there's one thing that is sure, this sure will happen. You prepare for the movies. You prepare for the trips. But you don't think of this. Are you I spread the word like a seed of life sown into bodies of death, sown into sleeping bags. Your grace is endless, and I hope that it allows those people a kiss when death is close, that the end comes slow to realize. Lover, to die in your hands to live. Even if heaven lived, to die. Face of Death, questo era Daniel Benjamin qui nel nostro studio, veramente emozionante. E, sembra una canzone molto profonda per un ragazzo così giovane. It's a very deep song for such a young boy. Yeah. Well, what kind of school have you have been? Che scuole hai frequentato? Well, just I left school before it finished. It was the, you know, we have this three school system in Germany. Like in Italy, sì, ha detto, yeah. Ho lasciato la scuola appena prima di finirla, hanno un sistema come l'Italia con tre livelli. Yeah, and I was on the gymnasium. Sì, era al liceo praticamente. But classical or scientific? Actually more classical. You could kind of choose between both. Like in Italy. Exactly, yeah. And I was more the language and music and arts kind of guy. So, ok, that's what I wanted to know. Sì, yeah. Quello che volevo sapere, appunto, stava seguendo una specie di liceo classico che era puntato su lingue, musica, arti. Insomma, mi pare chiaro che la tendenza fosse quella. Molti musicisti, peraltro, è un percorso abbastanza normale. Many musicians come out from art school. Yeah, and actually I had the worst degree you can have without failing in music. I had a 4. Sì, ha detto che aveva il voto più basso prima della bocciatura in musica, un 4. Da noi in quel 4... In Italy, with the 4, you fail. Okay. No, you can have fours. With 5, you fail, but with 4, it's just about. Ah, so it's the opposite. Praticamente col 5 è la bocciatura, mentre il 4 è la sufficienza minima. Questo è interessante perché è molto diverso dall'Italia. Volevo chiedergli una cosa riguardo al disco che mi sembra realizzato con notevole. Movimento, diciamo una grossa quantità di mezzi. Sounds like the record sounds like a rich production with many different instruments. Yeah. So ci è voluto molto tempo. Did it take a long time to make it? Not too much. It's more like I think the whole idea behind this record is part two of a two records thing. Sì. One before was called There's a Monster Under Your Deathbed, which is almost the same title, but you know, so this is part two, and part one was really well produced, kind of thoughtful music, and this is more like just trying to be spontaneous and rocking out with friends and by myself. Ok, questa è la seconda parte di un progetto. Il primo dei due dischi si intitolava The first one is There's a Monster Under Your Deathbed. Ah, ok. Il primo si intitolava There's a Monster Under Your Deathbed, cioè c'è un mostro sotto il tuo letto di morte, e invece questo si intitola There's a Deathbed for Your Monster, cioè c'è un letto di morte per il tuo mostro. È un calambur, un gioco di parole. E il primo disco era ancora più ricco, proprio, mentre invece questo è più frutto di una session spontanea con amici. In effetti vedo che c'è un gran numero di musicisti, there are many, many people involved in this record. Yeah, so exactly. It's kind of jam session. Yeah, it's jam session with this Swedish people and a Canadian guy from Patrick Watson band. I don't know if you heard of him. And also lots of friends from sì, c'erano coinvolti anche dei musicisti svedesi più un musicista canadese che suona con Patrick Watson, e il tutto alla fine però suona molto molto ricco, e sembra tutt'altro che improvvisato. To me it sounds very very rich, talking about arrangements. Mm-hmm. It doesn't sound like chaos with friends. Yeah, yeah, exactly. That's true, but it still was recorded really fast and in different occasions. Also, a lot of it was recorded at home by myself, so. Well, very good quality, anyway. Si è detto che alla fine è stato registrato molto velocemente in diverse occasioni, comunque, e una buona parte è stato registrato a casa addirittura. Devo dire che il risultato, tecnicamente parlando, lascia veramente a bocca aperta. Ci ascoltiamo un altro estratto da questo album che si intitola My Cloud Has Lost Its Silver Lining, la mia nuvola ha perso la sua scia argentata. Very nice title, un titolo molto molto carino. Allora ci ascoltiamo questo pezzo sempre da Daniel Benjamin. Mess I'm in, my bad luck got even worse, and my ship's about to sink. It's been weeks since I last saw light. My cloud has lost its silver lining, and my fate. Oh, what a shame! What's the matter? Now you Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, in questo brano, dell'arrangiamento che avete sentito, molto piacevole, molto ricco, anche un po' swingante, con questa atmosfera quasi, non so, da anni 30, vagamente, si intitola My Cloud Has Lost Its Silver Lining, ci sentiva una voce femminile, che è la moglie di Daniel. So, sì, sì. Yeah, sì, sì, is her name? No, no, no. Sorry. What's her name? Her name is Eleni, and Eleni? She's... Guess where she's from, by the name? Greece. Right. Quindi è una moglie di origine greca, che si chiama Eleni, Elena praticamente, con la quale Daniel sta approfondendo anche, diciamo, la parte musicale, al punto che mi diceva prima che questo sarà il... suo ultimo disco come solista, perché adesso partirà con una band, un duo anzi, insieme a sua moglie. So you were talking about this new project. Exactly. Can we call it a duo? Yeah, it's a duo, and it's called Sea and Air, which shows that it's, you know, both sea and air are like fractures of the nature, but also sea means she in German, and air means he in German. So it's like a wordplay with English and German. So that this is very hard to translate for me. Yeah, I know, but sorry. Si sta spiegando che il duo si chiamerà C and R, cioè C e R, che diventa un gioco di parole perché in tedesco suona come lui e lei, vagamente, pur essendo pronunciato all'inglese. In italiano sembra che stia delirando io, fondamentalmente. Okay, I think I gave the idea. Yeah, and then when you hear this, you understand that it's a duo. And what we do, we played yesterday in Padova, people could see we try to be a band, but with two people. So I play drums and guitars at the same time. She plays harpsichord and bass with her feet, and we sing at the same time, so it's everyone does like three instruments at the same time. Yeah. Which is sì, praticamente l'idea è di essere una band, anche se sono solo in due, perché lui suona percussioni e chitarra allo stesso tempo, mentre sua moglie suona harpsichord e basso con i piedi. I don't know exactly how you can play bass with your feet. There's an organ pedal, you know, like with the organ, and you like can a doors. Do, yeah. Sì, praticamente usa un pedale d'organo per fare il basso, e poi entrambi cantano, quindi in due fanno un'orchestra. L'idea sarebbe questa. I think it's time for you to play another song. What yeah, you think? I would love to. Yeah. Okay. Which song? Suona un'altra canzone adesso, di cui ci dirà il titolo. It's called You Are, and it's also from the first record, but it's also the first song ever that my wife sang on record. So it's like the beginning of the Sea and Air story already. And were you married back then? We were just married back then. And very young. Yeah, that's true. And I thought I'm gonna play this now because it's kind of a symbolic thing that there's future, and we will come back to Padova with the new record as soon as we can, and I hope to see you and to present you my wife on this chair as well. And then sì, detto che questa canzone è tratta dal suo primo album ed è stata la prima canzone in assoluto in cui sua moglie è intervenuta vocalmente. Erano già sposati, quindi si sono sposati molto giovani, e ha deciso di cantare questa canzone adesso perché abbiamo parlato appunto del duo, e in un certo senso questo brano è stato la base su cui poi è nato questo progetto musicale. Ha anche promesso che cercherà di tornare a Padova e di venire anche a trovarci di nuovo con la moglie per la presentazione del disco che faranno appunto sotto nome C&R. The title of the song again? It's called You Are. Si intitola la canzone You Are, e ce l'ascoltiamo adesso dalla voce di Daniel Benjamin. And Willy will take over the part of Eleni. Okay. Sì, e Willy farà la parte di Eleni. Good luck. Buona fortuna. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. You are greater than the universe.

amori in comune musicalmente parlando, naturalmente, in particolare Joseph Arthur. E in questo brano io ho sentito parecchie influenze. This song reminds me of Joseph Arthur in a way. I know that this is a compliment really for you. Yeah, it is. Definitely. Thank you. You're welcome. Can I say something about this song? Of course. It's a love song, and it's dedicated to our new friends from Padova, who are, some of them might be listening at the moment. Sì, questa è una canzone d'amore dedicata ai nostri nuovi amici di Padova che stanno ascoltando in questo momento. We just met them yesterday and they invited us for food today and we had a really great, really too short time, but really great time with them. Sì, ho detto che li hanno invitati a pranzo oggi, anzi a cena, sono stati insieme non abbastanza a lungo, ma sono stati molto bene, volevano ringraziarli. Yeah, and this song was for you and we love you and thanks so much. Grazie, milione. I think they understood. Penso che si sia capita questa dedica appunto agli amici di Padova. Bene, sono contento che abbiano trovato una buona accoglienza della nostra città e adesso ascoltiamo un altro brano. Volevo dire una cosa, qui volevo fare i complimenti a Daniel anche perché il concerto di questa sera, l'esibizione dal vivo, è stata un po', come dire, complicata dalla mancanza della sua chitarra che è rimasta altrove e quindi abbiamo dovuto rimediare tirando fuori qualche chitarra noi, ma vedo che se l'è cavata piuttosto bene, ma lo dico, se per caso dovesse scappare qualche stecca, sappiate che è più colpa della chitarra che dei musicisti. Ci ascoltiamo allora un altro brano dall'album di cui abbiamo già parlato, si intitola Ocean Spit Out Your Dead. This is strange title, un titolo veramente strano. Oceano sputa fuori il tuo morto. Yeah, exactly. It's first of all, just for you to know, it's the first song Eleni ever sung lead vocals. È la prima canzone in assoluto in cui sua moglie ha fatto la voce solista. It's a little bit as well what Sea and Air is going to be about, but the title is from a strange idea from the Revelation book. Do you know that old Jewish book? Yes, è tratto dal libro delle Rivelazioni, il testo fa parte della Bibbia. Exactly, and it's quite interesting that it says there is going to be a time where God commands the ocean to spit out all the people that have died in the ocean ever, you know, during ships that sink or something. C'è scritto in questo libro che arriverà un momento in cui Dio ordinerà all'oceano di risputare fuori tutti i morti che si è preso nel corso dei secoli, nei naufragi. Yeah, and just sit while you're listening to this song, just imagine that the ocean with the waves spits out all the dead people and they start living again. It's really scary. Sì, dice, l'idea era cercare di fare una musica che rendesse appunto la sensazione di vivere questo momento in cui l'oceano ci restituisce i morti di secoli. E allora ci ascoltiamo questa Ocean Spit Out Your Dead. Thank you. Rock Wave, l'onda del rock. Bene, allora abbiamo ascoltato questo brano che secondo Daniels è un po' un'anticipazione di quello che sarà il duo con sua moglie Eleni. Ma come ho detto prima, lui è un musicista di ampio spettro, insomma, che fa cose anche molto diverse, come quello che fa con questa band chiamata Jumbo Jet. Prendendo in mano il CD dalla foto di copertina, rende l'idea di qualcosa di totalmente diverso. Just the cover itself says a lot about this. I mean, yeah, it's obviously something very different. Yeah, it's totally different, and it's also a little bit more funny than serious, even though it's kind of serious too, but from the funny side, you know. You are having fun in a serious way. Exactly, okay. Exactly. Si dice, è chiaramente una cosa molto più spensierata, vogliamo dire goliardica, è un modo per avere per divertirsi con degli amici facendo musica, però ecco, il divertimento viene fatto in maniera seria, cioè è una cosa che vuole essere così appunto allegra, però dal punto di vista musicale ci mettono dell'impegno. E il brano che ha scelto da questo album, che si intitola Bang Bang Headshot Extended Play, che già il titolo insomma è un colpo in testa, Bang Bang, è un pezzo registrato dal vivo. Is it really live, the song? Live, yeah, it was in the studio, but live recorded exactly that way. So allora, it's good sound, but no fading, no fun, no lies, you know, just the way it is. Ok, sì, è stato registrato dal vivo, ma nello studio, quindi è in presa diretta, esattamente come suonava la band, senza nessun ritocco successivo. E il titolo del brano è The Day and Night Team. Just one. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Allora, questo era di Jumbo Jet con The Day and Night Team, very noisy. Yeah. È difficile immaginare che sia lo stesso musicista che abbiamo sentito qui suonare molto delicatamente con la chitarra acustica. Ed appunto l'idea della ampiezza di vedute musicali di Daniel, che mi stava raccontando come questa band sia chiaramente un progetto nato per suonare dal vivo, e facevano concerti molto rumorosi che hanno però avuto dei riscontri estremamente positivi, insomma. D'altra parte, il rock and roll genuino deve essere rumoroso. Rock and roll must be loud, right? Yeah, that's right. And funny too, you know. I think that got lost in that kind of music, that it's, we were always smiling when we did this, and it sounds maybe a bit aggressive, but it was really funny always. So it's really not dangerous in that way, you know, it's not evil. It's yes. Yeah, si diceva che appunto il rock and roll deve essere rumoroso, deve essere anche divertente. Loro, quando suonavano questa musica, stavano sempre ridendo, e per cui ha detto, anche se il suono poteva sembrare molto aggressivo, non c'era niente di cattivo in questo. E adesso apriamo una parentesi per lasciare spazio anche a Willy, che è venuto in Italia insieme a Daniel, e lui non ha qui il suo disco, ma lui è in una band. You are usually play with a band, right? You said Yes, I have a band called Lingby, and yeah, we play usually together with five people. So we have also a female singer, and we have a trombone and cello and bass and drums and guitars. Ah, sì, questa band che si chiama Limbi è una formazione a sei, e avete sentito l'elenco degli strumenti: trombone, violoncello, insomma, una cosa molto what kind of music do you play? Che tipo di musica fate? Because when I heard cello and trombone, I'm thinking about, I don't know, Water Boys maybe. Non so che cosa immaginarmi col trombone e violoncello, forse i Water Boys. I would say we play some orchestral indie pop. Like Divine Comedy. Yeah, but I mean, no, it's not really like that, but my musical heroes are maybe Sufjan Stevens, or I don't know. We listen a lot to Arcade Fire also. Sì, sta citando appunto come influenza gli Arcade Fire. Sufjan Stevens l'ha definito la loro musica un pop indipendente, quindi diverso dal pop mainstream che, come sappiamo, domina le classifiche, ma che è generalmente molto artificioso come suono, molto di plastica. Comunque adesso Willy ce ne darà un esempio, perché ha preso lui una delle chitarre che abbiamo portato in studio. What are you going to play? I play my newest song, it's called Marathon. And l'ultima canzone che ha scritto, che si intitola Marathon. Yeah, and it's about how life can be pretty long if you miss somebody. Dice che è una canzone che parla di come la vita possa essere molto lunga se senti la mancanza di qualcuno. Allora, Willy, only Willy, just solo Willy si chiama. Is that your full name, Willy? Yeah, it's actually my real name. My parents gave it to me. They didn't think about like it that it should not be a real name, you know? Like a lot of people say, "Hey, is this your real name?" Yeah, it is. Quindi il suo nome di battesimo, Willy, doesn't sound German to me anyway. E quindi appunto lo annuncio come Willy dai Limbi, con questa canzone intitolata Marathon. I had life's a marathon. The distance is very long. I heard it's a marathon. I never thought it took that long. So long. You were my closest friend. You took part of my way. I wish that we could stay on the same road every day. you are so important to me. With you I was halfway there. You made me feel so strong. How can I just carry on? I heard life's a marathon. The distance is very long. I heard it's a marathon. I never thought it took that long. I heard life's a marathon. The distance is very long. I heard it's a marathon. I never thought it took that long. I think a lot about times we had. I think a lot about you. You are to me so special to me. I heard life's a marathon. The distance is very long. I heard it's a marathon. I never thought it took that long. I heard life's a marathon. The distance is very long. I heard life's a marathon. I never thought it took that long. E questo era Willy dei Limbi con questa Marathon, e speriamo che in futuro di poter avere in studio anche gli altri componenti della band, anche se dovranno un po' stringersi. Maybe in the future you can come back with your band. Oh yeah, it will be not easy to put them all inside here, but we made it before. I think we would make it happen somehow. Okay, ha detto che cercheremo di farlo accadere una volta o l'altra. Allora, Willy non ha portato dischi, come ho detto prima. Adesso ci ascoltiamo un altro brano dall'album di Daniel. Questo pezzo si intitola Dig, ed è un pezzo del 1992, è l'unica cover dell'album firmata da Gene Eugene, che ammetto la mia ignoranza, è un personaggio che non conosco, quindi chiedo a Daniel, can you tell us something about Gene Eugene, because I don't know the guy. Yeah, sorry. Gene Eugene is a singer of a band called Adam Again, and he died in 2000. He wasn't, I think he was 39 years old when he died, and he just had a really good way of dying. He just passed away in his sleep, so he didn't have to suffer, and he didn't expect it at all. He just, his heart stopped, I think. And he was too young anyway. Yeah, definitely, but still, you know, it's kind of relieving in a way. Si è detto che Gene Eugene era il cantante di una band chiamata Adam Again, che è morto nel 2000 nel sonno a soli 39 anni, senza chiaramente accorgersi di nulla. Ha detto sì, è orribile morire così giovani, però nella tragedia il fatto che sia morto così nel sonno è sicuramente meno terribile che non dopo una malattia o altre maniere truci, diciamo. Yeah, and I think I really like three or four of the records they did with Adam Again. Actually, every record is really good, so I had to pay some homage to to his life work. And I think nobody really knew about them here over here in Europe. And was he American? Yeah. Lui era americano. Daniel è un grande fan della sua musica, dei suoi dischi, e ha voluto rendergli omaggio perché sa che in Europa sono praticamente sconosciuti. Yeah, and he also sang with a female singer, like he shared, like I do, which fitted perfectly to me and my wife. Sì, anche lui cantava insieme ad una ragazza, per cui la cosa si adattava perfettamente a Daniel e sua moglie. Yeah, and I, yeah, if you like the song, check out Adam Again. Check out the 10 songs by Adam Again. It's a record from 88, I think. That's my favorite. Sì, dice, se vi piace la canzone, cercate l'album, gli album di Adam Again, specialmente il disco 10 Songs, che è uno dei favoriti di Daniel. Io lo farò perché mi sono molto incuriosito di questa storia. Intanto ascoltiamoci la cover di questo brano intitolato Dig. I had a big idea, I had a crazy heart, I broke the sacred seal, I told a lazy lie. I've had my conscience banned, I've had my patience tried. I've been up in the desert and down by the riverside. Will the eagle fly if the sky? Do the faithful sigh because they are so few? Remember when I cried, remember when you knew, remember that look in your eyes, I know I do. And count the stars to measure time, the earth is hard, treasure fine. To the sea I'll crawl on my knees. Feel it coming in, blood comes down. So I begin again, again the healing round. There was a time that I might have surrendered, but not now. Cause all the cards to measure mine, the earth is hard, the treasure find. Rockwave, l'onda del rock. Allora, ricordatevi questo nome, Adam Again, è il nome della band di Gene Eugene. È veramente una bella canzone, non so chiaramente come possa essere comparata all'originale. I have no idea. You play the song in the same way as the original? You changed a lot? I know it's kind of in the same way. It's just as I have recorded it like 15 years after he did. It sounds different, just the way it sounds, you know, but it, the instrumentation is almost the same. Sì, ha detto che la cover è piuttosto rispettosa dell'originale. Ci sono 15 anni di differenza temporale che chiaramente comportano delle differenze nel suono, però ha cercato di essere abbastanza rispettoso. You wanted to be respectful in his... Exactly. Yeah. Usually if I do covers like we're gonna do Mercy Street of Peter Gabriel on the next record, that's a song almost everyone knows, so I'm gonna try to do this a lot different. Yes, but for this song Dick, it's just that nobody here knows it, so I'm gonna, you know, I try to do it the same as possible, as close as possible. Sì, giustamente ha detto nel prossimo disco con sua moglie hanno deciso che faranno una cover di Mercy Street di Peter Gabriel, e in questo caso si tratta di una canzone che tutto il mondo conosce, per cui la loro idea è di darne una versione piuttosto diversa, appunto per farne magari scoprire un'altra faccia. Mentre parlando di questo brano, appunto Dig, che è un pezzo purtroppo sconosciuto, ha voluto mantenerne l'atmosfera e la strumentazione il più possibile vicini all'originale. Sono le 23:38 minuti, abbiamo ancora una ventina di minuti insieme a Daniel Benjamin, che adesso ci suonerà un'altra canzone, non so che canzone sia. Can you introduce the next song for us? Yeah, it's called River Motion Switch, and it's from the second album, as we're doing a chronological journey here from the first to the last stuff. And it's about the idea of if you see something really beautiful in nature, like a river, like having a switch that turns it off at the moment you like it a lot, and you can just have a look at it for 5 minutes and then turn it on again. Ok, sì, è una canzone, sta andando in ordine cronologico, perché questo è un brano dal secondo disco, e è una canzone che parla dell'idea che probabilmente gli è nata una situazione simile quando si è davanti a uno spettacolo della natura particolarmente bello, che si vorrebbe avere un interruttore col quale bloccare l'istante per tutto il tempo che vogliamo, e per poi farlo ripartire. Something that you can make with the video recorder and the National Geographic. Yeah. Si può fare in qualche maniera con un DVD del National Geographic, però non è la stessa cosa. Naturalmente farlo nella realtà sarebbe molto più suggestivo. Of course it's not like the real thing. So the title of the song again? It's called River Motion Switch. Ecco, and si intitola River Motion Switch, ovvero sia l'interruttore del movimento del fiume. Yeah, I really hope it works out because I haven't played it in a few years now, but... Ok, ha detto sì, spera che venga bene perché è un po' di tempo che non la suona dal vivo. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Love, let me sing of love. Like a glider from above, like a river to the sea. Let your love move to me. That's why I love you. That's why I sing songs to you. That's why I love you. Kiss you first. Love me. Love. can you cry for love? With all emotions switched on, with a gaze back to those childhood days, love. It's a fact that can't be wiped away. That's why I love you. That's why I sing songs to you. That's why I love you. 'Cause you first love. You loved me. You loved me. That's why I love you. That's why I sing songs to you. That's why I love you. That's why I sing songs to you. That's why I love you. That's why my heart cries out to you. That's why I sing songs to you. That's why I love you. 'Cause you first loved me. That's why I love you. 'Cause you first loved me. You loved me. You loved me. You loved me. River Motion Switch, se mi ricordo bene il titolo. Complimenti Daniel e Willy. La chitarra mi pare che abbia funzionato, everything worked, se, e si è anche ricordato la canzone, quindi direi che è andato tutto bene, questa specie di si può dire salto senza rete che ha voluto fare questa sera. Adesso gli diamo anche un attimo di tempo così per sistemarsi, ascoltando un altro brano che è dal disco There's a Deathbed for Your Monster. Si tratta di Give and Take, che è il brano che apre l'album. Magari poi gli chiedo anche qualcosa sulla canzone, ma intanto ascoltiamocela. Thank you. sky's been washed up ashore. Seems he has so much to give for that he couldn't take it anymore. Now it's too Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Bene, allora questo brano d'apertura dell'album intitolato Give and Take. Do you want to say something about this song, or are we just talking about? Yeah, it's just about balance, you know. It's give and take, hot and cold, you know, all about that. È una canzone sul bilanciamento, dare e prendere a caldo e freddo, insomma, stare in equilibrio. Ma adesso ci ascoltiamo una canzone di Peter Gabriel che prima ha citato Daniel, appunto, questa Mercy Street, un pezzo famoso di Peter Gabriel, e che lui appunto ha deciso di rifare con sua moglie. Gli voglio chiedere appunto come mai questa scelta. Why did you choose Mercy Street among millions of songs? Yeah, I saw him on his last tour. I saw him twice, and it just it was a really spiritual experience to see him live, and I've never seen him before, so I decided from all the songs that I knew of him, I decided I want this because I can twist it around, because there's a man vocal, like his vocals, and then a female vocal coming in, and I just want to turn this around. I want my wife to sing the man's part and I'm gonna sing the female part. Okay. On the record, and that's why I chose it. Ok, allora ha detto che ha visto Peter Gabriel due volte in un periodo di tempo abbastanza breve nel suo ultimo tour, e non l'aveva mai visto prima. Ha detto che è stata un'esperienza spirituale, addirittura veramente lo ha molto colpito, e ha deciso che voleva cantare una delle sue canzoni, e ha scelto Mercy Street perché si presta bene ad un twist, l'ha definito, cioè una giravolta, possiamo dire in italiano, ovvero sia la sua idea è che la canzone di Peter Gabriel appunto è un duetto con una voce femminile. Loro faranno lo stesso con sua moglie, però invertendo le parti, cioè sua moglie canterà la parte maschile e lui canterà quella femminile, quindi si presenta come una cosa molto interessante, e speriamo di sentirla presto. Intanto ci ascoltiamo l'originale di Peter Gabriel. looking down on empty streets. All she can see are the dreams all made soft, are the dreams made real. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures the soul with no ink at the seams. Take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out, wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and grey, nowhere in the suburbs in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, words support like bone, dreaming of mercy. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Bene, questo era Daniel Band, scusate, questo era Peter Gabriel con Massistrita. L'abbiamo sfumato perché appunto abbiamo circa 5 minuti prima della conclusione di questo appuntamento con Rock Wave e vogliamo, come nostra tradizione, lasciarvi con una canzone dal vivo che appunto Daniel ci canterà fra breve. Vi ricordo che questa è Rock Wave, l'appuntamento col rock di Blu Radio Veneto, tutte le sere dalle 22.30 alle 24, spesso e volentieri con la musica dal vivo. Vi ricordo che venerdì avremo i Rustis qui ospiti nel nostro studio, quindi un altro appuntamento imperdibile, che tornano a trovarci per presentare il nuovo bellissimo disco, Marco Grompi e i suoi amici, per cui sintonizzatevi, non mancate a questo appuntamento. E adesso lasciamo appunto che Daniel ci auguri la buonanotte con l'ultima canzone. È venuto qui, vi ricordo, per presentare questo suo album intitolato There's a Deathbed for Your Monster. E speriamo che torni presto con il nuovo progetto con sua moglie, che ci sia l'occasione di riaverlo qui per ascoltare appunto il duetto familiare. E ringraziamo naturalmente anche Willy che lo ha accompagnato e ci ha intrattenuto a sua volta. E adesso gli chiedo: can you tell us something about this last song? Yeah, it's called You and I, and it's for tonight. It's about you listening. Please become friends on Facebook or something if you liked it, and I hope to see you next time in Padova when we play. Ok, allora la canzone si intitola You and Me, cioè tu ed io, e, è una canzone dedicata appunto in questo caso il tu, sei tu ascoltatore in ascolto in questo momento, e Daniel invita tutti a stringere amicizia con lui su Facebook per stare aggiornati anche sulla sua attività musicale, e si augura di vedervi magari in volto la prossima volta che avrà occasione di suonare a Padova. E allora con questa canzone di Daniel Benjamin chiudiamo questo appuntamento dal vivo con Rockwave. Grazie a tutti per l'ascolto e naturalmente soprattutto thank you very much Daniel and Willie for being with us. Thank you for having us. Grazie. And one thing that is really important about this song is this is the first Sea and Air song ever to be played on Italian radio. Ok, questa è in assoluto la prima canzone di CNR, appunto la band con sua moglie, che viene suonata in una radio italiana, una nostra anteprima. Benissimo, grazie. Pretty civilized, we told a lie. Shut it up against the sky and the flood. Every value was drowning with us. I swam like a strong man, which I'm sure I never was. You and I were trying to steal the show. You and I were gonna go against the flow. You and I were losing a soul. You and I, we were just scared of losing control in the flow. It was hard to realize, it took time. It will only paralyze, we will write about touching and making sense. The grass was greener, but we didn't find the other side. You and I wanted to make some history. You and I, the judge is burning is okay with me. You and I, it didn't make no sense anymore. Love ain't power, but love was powerful before. With souls like clean water, we got ears to hear, eyes to see, and the decision to fear. You and I, you and I, I'm yours and you're mine. I'm yours and you're mine. Rock Wave, l'onda del